con Paolo Fresu per parlare di Time in Jazz, 32esima edizione a Berchidda e nel nord della Sardegna dal 7 al 16 agosto 2019. Paolo, ben trovato. Buon pomeriggio, buongiorno, salve. Per chi non conoscesse questo evento, lo raccontiamo un Possiamo raccontare anche se non è facile po'? da raccontare, perché Berchidda giunge intanto quest'anno alla sua 32esima edizione, un festival che abbiamo chiamato nel mezzo del mezzo, perché 32 è un numero mediano, perché siamo in un'isola in mezzo al Mediterraneo e insomma per tanti altri motivi che poi andremo a scoprire durante il festival. Inizieremo il 7 di agosto con il classico concerto sulla nave della Sardegna Sergi in traversata, poi apriremo di fatto il festival in terraferma invece alle ore 18 con il concerto di Dani Lorea, con qualche sorpresa a Magnata, a casa di Fabrizio De André, dove siamo stati spessissimo in questi anni con tantissimi ospiti importantissimi, ma quest'anno insomma è un concerto particolarmente significativo, non solo perché sono i 20 anni della morte di Fabrizio, ma perché la prima volta che noi siamo stati a Magnata è stata proprio con un concerto di Dani Lorea, quando ancora non sapevamo bene che cos'era questa realtà, cosa avrebbe potuto scatenare poi la presenza di migliaia e migliaia di persone che sono venute in questi anni proprio quasi in pellegrinaggio a casa di André. Quindi dopo molti anni Danilo ritorna da De André appunto con il suo concerto in solitudine che oggi porta in giro peraltro da diversi anni e che nacque proprio in quell'occasione. Poi saremo la sera col Faranci, quest'anno ci sono tanti comuni nuovi che entrano nel programma di Time in Jazz e di questo siamo molto molto molto molto contenti, non solo col Faranci ma ci sarà anche Cortorotondo, ci saranno, confermeremo ancora Alfakena con un posto bellissimo che si chiama Liconchi, saremo ovviamente ad Olbia, saremo a Budoni, saremo a Posada, insomma i concerti sono veramente molti e quest'anno la particolarità ci sono proprio molti concerti che si svolgono anche proprio in costa e abbiamo definito proprio una geografia nuova per il festival, c'è cioè il time to cost e la parte invece interna, proprio perché fino a questi anni volevamo raccontare la Sardegna dell'interno, ma abbiamo pensato anche che fosse giusto attraverso la musica poi portare il festival anche nei luoghi che sono i luoghi anche del turismo e poi portare i turismi magari dalla costa verso l'interno dove poi abbiamo tantissimi concerti tra Cheremule e Mores, quest'anno ci sono ugualmente dei nuovi ingressi, le chiese di campagna di Berchidda e tantissimi luoghi, saremo ovviamente a Telti, saremo in diversi luoghi a Tula eccetera eccetera, ne sto scordando alcuni in realtà perché sono circa 20 comuni coinvolti in tutto il nord della Sardegna con tantissimi concerti con grandissimi artisti internazionali, penso ai nomi di Miss Peter Molder, penso a Omar Sosa, ormai amico di Berchidda della Sardegna insieme a Ilia Canizares, penso anche a Jacopo Morellenbaum che si esibirà sul palco centrale di Berchidda con il sottoscritto e con Daniele Di Bonaventura, penso al progetto Tempo di Cento, un vero progetto teatrale con una grande macchina, una scena teatrale che aprirà proprio il palco di Berchidda l'11 di agosto. Pensate che le scene arriveranno con i tir proprio dal Bolzano, che è un progetto su Chet Baker prodotto dal Stabile di Bolzano, con 8 attori in scena e con 3 musicisti, ovviamente scenografie, sarti, macchinisti, eccetera, eccetera, per un'unica sera proprio a Berchidda. E poi chiuderemo, parlando sempre del palco principale, con un evento particolarissimo, abbastanza straordinario, il 15 di agosto, durante il giorno, intanto il pranzo berchidese nella chiesa di San Michele, la zuppa berchidese, ci saranno poi i lavori dei bambini, quest'anno Berchidda è anche un festival, si chiama Time to Children, quindi tutta una serie di progetti dedicati all'infanzia e chiuderemo il 15 di agosto nella prima serata sul palco principale, intendo, con il concerto di Ornella Vanoni e poi salirà sul palco Mirko Casadei con la sua orchestra. Molti si staranno chiedendo cosa c'entra il liscio con il jazz, beh, ci saranno molte sorprese, lo scopriremo lì, ma finiremo poi il 15, il 16 pomeriggio, chiuderò io insieme a Daniele Di Bonaventura una sorta di concerto al tramonto molto intimo, anche se verranno probabilmente migliaia di persone nello stagno di San Teodoro, ma ho dimenticato molte cose in realtà, ci sono tutti i gruppi italiani, ci sono i progetti di Simone Graziano, di Claudio Fasoli, la sarda Franca Masle insieme a Sade Mangiare Cina, un'altra sarda, anche se non vive in Sardegna, che è Monica De Muro, con Natalio Mangalavite, Francesco Ponticelli, insomma i musicisti sono veramente tantissimi, sono decine stato il fotografo ufficiale del festival, non solo, ma inizieremo quest'anno un'attività editoriale con una serie proprio di libri fotografici coprodotti insieme ad una casa editrice romana che si chiama Postcard, e quest'anno editeremo il primo libro che è proprio la retrospettiva delle fotografie dello scorso anno raccontate dall'occhio di Roberto Cifarelli. E poi nella Casara ci sarà anche la mostra, il progetto Casart, che è un progetto che tiene conto appunto di quelle che sono le nostre attività legate all'arte contemporanea. In particolare quest'anno presenteremo un pezzo della nostra collezione di arte contemporanea, sono opere nell'arco di 30 anni che sono state donate da molti degli artisti che soprattutto negli anni passati hanno partecipato alle nostre attività di Time Jazz. Ecco, ripercorrendo un po' la storia, e come era nato questo festival, con quali intenzioni? Ma era nato io ancora 2 anni fa, quando siamo arrivati ai 30 anni, abbiamo editato per Panini un bellissimo catalogo di cui andiamo molto fieri, perché è un po' lo scrigno, diciamo così, dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, delle nostre emozioni. E ho ritrovato, andando a cercare nei veri materiali, quei 2 fogli A4 che scrissi con la mia Olivetti lettera 32, in cui si racconta un po' che cos'era questo festival. Non era un festival, non sapevo bene che cosa volesse essere, ma in seno a queste poche parole scritte con la Olivetti ci sono 2 o 3 parole chiave che secondo me poi ci siamo portati appresso e che abbiamo fatto crescere. Uno, da una parte c'era l'idea di costruire a Berchida un qualcosa di unico e di originale che non si potesse vedere senza altrove. Mi rendevo conto evidentemente in quegli anni, seppur molto giovane, perché io avevo 26 anni, ricordiamo agli ascoltatori che il festival è nato nel 1988, che l'unica possibilità per convincere qualcuno a venire a Berchida per sentire il jazz, in un momento in cui c'erano dei grandissimi festival in Italia, c'era anche il festival jazz in Sardegna, Cagliari, stava iniziando un festival a Santa Maresi che conosciamo, c'era anche un'area da festivaliera a Calavonon che stava iniziando, ma c'erano soprattutto i grandi festival poi nazionali, cioè quelli di Umbria Jazz, il festival di Pescara e tantissimi altri. Quindi l'unica possibilità che avevamo per convincere un pubblico a venire a Berchida era proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. La novità non era solamente nella proposta, ma la novità era anche nella possibilità, attraverso un territorio come il nostro, così unico, così particolare, che ancora del quale non conoscevamo, devo dire, le potenzialità anche dal punto di vista naturalistico, ma era fare a Berchida delle cose, oppure non solo a Berchida ma poi anche negli altri comuni, qualcosa laddove proprio il territorio, la gente, la qualità del luogo, il rumore il suono delle cicale eccetera eccetera avessero portato i musicisti a suonare in una maniera nuova. E allora questo aveva un senso, perché anche chi seguiva Umbria Jazz o Pescara magari poteva venire in Sardegna a seguire gli stessi artisti, sapendo che quegli artisti probabilmente da noi avrebbero fatto un concerto altro, un concerto diverso. Quindi abbiamo iniziato a portare gli artisti non solo sui palchi ma anche nei luoghi diversi, cioè nelle nostre chiese di campagna. Quando poi il pubblico è aumentato dalle chiese di campagna siamo usciti verso l'esterno, perché ovviamente la gente non ci stava, erano delle chiesette molto belle ma molto piccole. Dall'esterno delle chiese di campagna di Berchida ci siamo spostati alle chiese di campagna anche dei comuni limitrofi, città Oscheri, a Monti, arrivando fino a Nughedu, San Nicolo, ad Uzieri, eccetera, eccetera, e poi dall'esterno delle chiese ci siamo spostati nei luoghi che sono i boschi, che sono le rive dei fiumi, le spiagge, i luoghi di interesse sotto il profilo non solamente naturalistico ma anche archeologico, quindi siti, i nuraghi del Lungo Stejanas, eccetera, eccetera. Ecco, quindi Berchida è diventato, Time in Jazz in qualche modo è diventato un festival apritista che ha dimostrato quanto il territorio, la natura, i luoghi possono essere realmente protagonisti se, diciamo, contrapposti, anche se con il termine giusto, a una grandissima qualità musicale che è quella dei più grandi artisti della storia del jazz che sono passati a Berchida, da Amar Jamal a Ornette Coleman a Frisella, Jan Garbanti, poi ovviamente tutti gli artisti italiani, ma non voglio fare nomi perché rischio veramente di dimenticare qualcuno di importante. E poi l'altro obiettivo era quello di fare di questo festival un qualcosa che potesse avere una proiezione nel tempo, cioè ci rendevamo conto che l'unico modo per posare una pietra oppure per seminare qualcosa era poi non solo seminarla nel luogo giusto, ma poi avere anche la buona terra e la buona acqua continuando negli anni che abbiamo potuto, come dire, non solo innaffiare quel seme, ma seminarne anche gli altri, insomma, quindi tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi anni, non tutte, come dire, tutte le ciambelle uscivano col buco, ma le cose belle che abbiamo ritenuto importanti le abbiamo poi, come dire, risseminate e oggi fanno parte di un progetto molto ampio che, come dicevamo prima, non abbraccia solamente la musica, ma abbraccia molte altre cose, che sono l'idea del green, quindi rispetto per il territorio, rispetto per l'ambiente, sono le letture, il piacere, insomma, di condividere, come dire, le bellezze della vita attraverso l'arte e tutto quello che l'arte può suggerire. Quindi le idee di allora erano veramente poche, apparentemente confuse, ma forse perché erano così poche, come le hanno realmente tracciato la strada fondamentale di un festival che non vogliamo dire che sia il più bello o il più brutto del mondo, io credo che le gravature non vadano mai fatte. Quello che mi piacerebbe dire di Berchida è che è un festival diverso, ecco, questa diversità credo che sia apprezzata poi non solo dal pubblico numerosissimo che viene, ricordiamo che in circa 10 giorni le presenze sono quasi 35.000, ma anche apprezzata del pubblico, e quindi quando vado in giro per il mondo a suonare, perché in realtà io sono un musicista, non lo dimentico, in questo momento sto chiudendo proprio la lunghissima tournée estiva per arrivare poi a Berchida la mattina del 7 di agosto, ma quando vado in giro per il mondo, anche dall'altra parte dell'oceano, e ogni tanto trovo qualcuno che mi parla di Berchida perché mi ha sentito dire bene da un musicista che magari c'è stato, oppure da una persona che è passata lì, beh, questo mi riempie di orgoglio. E soprattutto è uno sprone incredibile per continuare, perché le cose non sono facili, ma quando si fanno con molta passione ci si mette una energia incredibile, non solo la mia, ma quella di tutte le persone che poi lavorano intorno a festival, che sono veramente tante, tante, tante, diverse centinaia di persone che veramente si danno in fare, alcuni volontari, altre persone ovviamente delle professionalità importanti, ma che sono il vero racconto del festival. Io dico sempre che la nostra mensa interna, cioè la mensa dove andiamo a mangiare noi, dove mangiano i volontari, i tecnici, i musicisti, eccetera, eccetera, serviamo mediamente 700 pasti al giorno. Significa che divisi per due, pranzo e cena, significa che noi diamo da mangiare a circa 300-350 persone, e sono questi i numeri del grande esercito delle persone che lavorano intorno al festival, e sono quelle che poi, per dire, riescono ad offrire al pubblico che viene un qualcosa di estremamente bello che poi la gente si porta a casa e magari si semina poi altrove durante l'anno. Una curiosità in chiusura, ecco, guardando anche al tuo percorso artistico, in questo momento cos'è che ti incuriosisce e che direzione stai prendendo? Ma le direzioni musicali sono sempre molte e in qualche modo il festival poi le rappresenta, perché essendo io il direttore artistico è un po', diciamo così, il padre del festival. Ovviamente il festival prende una personalità, acquista una personalità e prende una via che è un po' quella del mio pensiero, quindi del fare musica, che è un pensiero molto aperto, che è un pensiero molto a 360 gradi, perché credo che non esista una sola musica, non esiste una sola cosa, nulla è solamente bianco e solamente nero, ma ci sono molte gradazioni di colore che vanno ovviamente trovate se si ha voglia di incontrarle e di vederle. Quello che ho fatto io, dovessi raccontare la mia stanza di ora, in questo momento per esempio sono in giro con Dino Rubino e Marco Bartoscia, che sono appunto Tempo di Cette, cioè la parte solamente musicale del progetto teatrale che portavamo a Berchida. La settimana scorsa sono stato in tournée invece con Jacques Morellenbaum e appunto Daniele di Bonaventura, ma prima ero con Lars Danielsson in duo, questo grandissimo contrabbassista svedese, ho fatto la Norma di Bellini al Conservatorio di Milano con un'orchestra, poi ho girato col mio David Quartet, il gruppo con Beppo Ferra e Paolino Dalla Porta e Stefano Bagnoli. Sono progetti molto molto diversi, perché mi piace questa idea di una diversità che poi compone, come dire, un arazzo, un puzzle estremamente, estremamente ricco. Dove andrà la musica del futuro non lo saprei, non credo di poterlo sapere, ma quello che so è che questa passione per il nuovo, questa passione invenzione, questa bellissima opportunità che è quella di avere sempre una casa vuota dove da riempire, una casa vuota da riempire, da arredare, oppure una stanza da arredare magari con le pareti vuote dove si possono mettere dei quadri o si possono fare delle cose, con l'idea di avere qualcosa di nuovo da costruire ogni giorno. Credo che sia una opportunità straordinaria. Questo accade nella musica e questo accade ovviamente anche nel festival, perché ogni volta che un festival finisce, la settimana dopo è come che ci sia una casa nuovamente vuota, dove è stato tolto tutto e che bisogna riempire, e non la si riempie mai a caso, ovviamente la si riempie secondo un principio, secondo un'etica, secondo un'estetica, una passione che ci permette poi ogni anno, come dire, di ripartire da casa, da capo, senza guardarci indietro. Ecco, prendo in prestito una frase, la filosofia di Miles Davis, insomma, visto che io sono un grande appassionato della sua musica, insomma, credo che un giornalista gli aveva detto cosa vede nel futuro, gli aveva risposto: vedo il domani. Ecco, il domani secondo me è una porta semi chiusa o semi aperta, dipende dai punti di vista, dove dobbiamo necessariamente entrare. Chiuderla sarebbe, come dire, percepirsi un grande errore, perché significherebbe, come dire, risultare in qualche modo vinti. Ecco, una porta semi aperta o semi chiusa secondo me è una bella metafora della voglia di continuare, di andare avanti. Dove andremo non lo sappiamo, ovviamente. Se l'avessimo saputo probabilmente ci sarebbe una noia mortale. 32esima edizione del Festival Time in Jazz nel mezzo del mezzo a Berchidda e 20 comuni della Sardegna dal 7 al 16 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Paolo Fresu. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo. Arrivederci.